Ma che fischia? Non mi ascolti? Là. Forte e chiaro adesso? È fatto. E allora, che si dice di bello? Niente, sono andato a farti. Ma buono, buona radio, buon tutto. Fatti Rocci, un attimo di bianco da parte mia, dai, che ha pagato. Continua, bianco un attimo.